Eccoci qua, eccoci finalmente con il quinto episodio di Alla Conquista del Gioco, quinta settimana di trasmissione. Stiamo andando avanti, nessuno ci avrebbe creduto, neanche noi, eppure siamo ancora qui, con Pietro e Claudio. Parla per te, io credo sempre in me stesso. E credi anche nel cuore delle carte, magari. No, parlo di giochi da tavolo in realtà. Ed eccoci qua. Con questo quinto episodio del podcast italiano gestito da dimostratori. E visto che è gestito da dimostratori, prima di parlare dell'argomento della puntata, parliamo di Aredemo, perché nel weekend appena trascorso, ovvero Sì. il 17 e 18 settembre, a Faenza, in provincia di Ravenna, c'è stato Faenza Ludens 2016, dove la nostra associazione Area Games ha partecipato e anche Claudio, qui presente, ha partecipato. Io purtroppo ero in altre faccende affaccendato. Esattamente. Dato che io sono più professionale e partecipo alla maggior parte delle aree demo, ero presente. Però prima ci scusiamo con il pubblico perché verso la fine dell'episodio precedente avevamo puntualizzato che avevamo parlato esclusivamente di giochi da tavola, mentre iniziamo con parlare di una fiera. Non ricordo di aver mai detto una cosa L'ho simile detto io. io, è per questo che me lo ricordo. Ah, ecco perché non me lo ricordavo. Perché non Ma è questo importante. perché... No, vabbè. Perché si vede che non mi ero fatto un'idea del fatto che c'era anche la fiera di Faenza la settimana E dopo. tra 2 settimane invece parleremo di Empoli Games, probabilmente. Quindi hai fatto una Fatevene falsa una promessa. ragione, persone. Esatto. No, falsa promessa è una cosa. Parlerai te allora, scusa. Se Vabbè. sarai presente, perché non si sa mai. Io non sono un assentista. Va bene. Parliamo di Faenza Ludens in questo momento, che il tempo stringe, abbiamo il tempo contato, dobbiamo parlare anche di giochi dopo. Ah, non lo so qual è il tuo problema del fatto del tempo. Comunque, parliamo è un po' più al plurale. Diciamo che parlerò di Faenza. Va bene, parla. E incomincio perché sennò veramente ci mettiamo troppo tempo. Bla Allora, bla bla bla. abbiamo già detto, lo scorso fine settimana c'è stato Faenza Ludens. Se non ricordo male, dovrebbe essere la quarta edizione. Adesso ho tirato un numero lì, ma mi pare di averlo sentito durante il lavoro là. Se non ricordo male, era la quarta edizione e eravamo presenti come Area Games insieme ad altre associazioni o vari negozi, erano presenti anche all'interno della fiera. C'erano la Cranio Creation, che sono i distributori di giochi del calibro di Last Will, Editori anche di giochi. editori, nomi in codice, Dungeon Fighter e così via. All'entrata della fiera c'era Playa Game, che è un negozio di giochi da tavola di Di Imola. Imola, Sì, esatto. ma non facciamo pubblicità ai negozi, che poi la gente pensa che abbiamo un ritorno che non abbiamo. No, sto solo facendo un riassunto di quello che c'era nella fiera. Ok, va bene. C'era un'area dedicata al modellismo, quindi diversi giochi da tavola di miniature come Warhammer 40.000, poi c'era, se non ricordo male, c'era X-Wing. No, E era altri Star Wars Armada, se non Star sbaglio. Wars Armada, sì. E altri giochi di miniatura un po' più di nicchia sui samurai o cose del genere. Ronin, cioè un nome. Sì, poi c'era l'area di Risico e i Ludici c'erano con un'altra associazione che fa dimostra giochi da tavola. Sì, della zona di Faenza. E boh, adesso sinceramente non mi viene in mente altro, scusate, mi sono dimenticato qualcuno. È che ho lavorato più che girato la maggior parte del giorno. Io non Quindi. c'ero, quindi non posso dire niente. Sì, no, mi scuso perché ho scordato qualcuno, ma è perché io più che altro sono stato a dimostrare nella mia zona più che andare in giro. Quindi è per questo che adesso sono andato ad occhio per quello che mi ricordavo, per chi mi ricordavo di aver visto. Staccano Comunque, vista. eravamo lì, eravamo in 6 o 7, abbiamo spiegato diversi giochi. La prima giornata di sabato siamo stati lì fino alle 2, alle 7 a spiegare, poi dopo ci siamo spostati a mangiare e siamo tornati il giorno dopo per rimanere un po' più tardi. Che cosa abbiamo portato con noi? Abbiamo portato il buon Colt Express Gigante, che ci ha fatto compagnia anche a Comix Popoli. Ha avuto un buon successo anche quello, considerando che la prima giornata l'ho spiegato 8 Un buon numero. e parliamo di un gioco che dura 3 quarti d'ora, un'oretta, quindi diciamo che per tutto il giorno ho fatto Colt Express Gigante. Giusto, inoltre con noi c'erano i nostri buoni amici di Brisighella. Ah sì, giusto. C'era ludicamente Brisighella. Esatto, eravamo assieme ludicamente, quindi a farci compagnia c'erano anche loro che dimostravano i loro giochi personali nei loro tavoli. Ogni tanto se fanno qualcosa nelle zone di Brisighello o cose simili, andate a darci un'occhiata che sono molto bravi. Brisighella, per chi non lo sa, per chi non è della zona, è sempre vicino a Faenza, sempre in provincia di Ravenna. Esatto. Quindi dicevo, noi abbiamo presentato Coltaspezza Gigante, abbiamo messo su Dino Race, diciamo, i soliti giochi che sono un po' più ben visti degli altri, però in realtà sono usciti fuori anche altri titoli durante la fiera, che l'altra volta si erano visti un po' meno, del calibro di Ship Race, del calibro di Flashpoint Fire Rescue, che veniva dalla mia collezione, però l'ho portato volentieri. Dalla mia collezione. Sì. E poi ho provato nuovi giochi parlando, comunque facendomi spiegare da altre associazioni, tipo grandi giochi del calibro di Micio Miau. Potete immaginare che intenso gioco sia. Appena uscito dalla Raven, Esatto. com'è questo Micio Miau? È un gioco di gatti di destrezza. Mi ricordo un po' il mio prototipo, che però della Raven, hai detto? Sì, Sì. però. No, no, lo stavano già facendo prima Sì, che facessi esatto. vedere. Sì, no, ma mi ricordo un pochino, non troppo. Perché in realtà è più un Tetris di destrezza questo. Bene, bene. Però noi non vogliamo sapere la tua giornata, Claudio. Vogliamo sapere cos'è successo, cioè cosa hai visto di interessante a Faenza Ludens. Perché i nostri ascoltatori dovrebbero andare il prossimo anno alla nuova edizione di Faenza Ludens? Beh, come ho già detto, sono presenti tutte queste varie associazioni. Si sono anche stati dei tornei, per dire, c'era il torneo di Bang e c'era anche il torneo di Super Smash Bros. Vabbè. Perché si scopre una nuova realtà, ci sono un sacco di persone che sono pronte lì a spiegarti i giochi da tavola. Se trovi il gioco che ti piace, è pieno zeppo di negozi che hanno tutti i titoli che si presentano di solito, quindi puoi portarti anche a casa la tua copia. Ho visto in particolare il primo giorno che tutte le persone si fermavano a guardare Coltaspezza Gigante e erano lì che parlavano tra loro. Mi sono presentato, gli ho chiesto se volevano provarlo. Dicevano più o meno tutti hanno detto la stessa cosa. Ne ho sentito parlare, ma non ho mai avuto modo di provarli, quindi gliel'ho spiegato. Quindi diciamo che c'è anche comunque, ci sono più che altro persone che già vanno lì, sono persone che sanno già cosa trovare, però magari conoscono l'argomento, ma non ne sono mai entrate in profondità, nel senso che non conoscevano il gioco, lo conoscevano solo di fama, per dire. Ho Sì. sentito che hanno venduto un sacco di copie di Mice & Mystic e di altri vari giochi, infatti le bancarelle dei negozi avevano rimasto poca roba per la maggiore. Quindi direi che praticamente il motivo principale per cui andare alla fiera è divertirsi, provare dei giochi. Se piacciono, è molto probabile anche comprarne delle copie, perché come ho visto era pieno di persone che dopo averli giocati tornava con il gioco nella busta e veniva a provarne altri. Oh. Quindi questo è stato molto gratificante da vedere. E che altro c'è da dire? È stata una buona area demo, un po' più leggera di Comics Popoli, ma in realtà le persone comunque abbiamo avuto il pieno anche noi. Sia la prima che la seconda giornata, c'erano anche alcuni cosplayer di Star Wars. E niente, giusto, a fine sabato sera i nostri amici di Brisighella hanno preparato un torneo di Zombicide a cui ho anche partecipato. Ok, bene. Bene. Quindi per chi fosse interessato, chi se l'è perso come me, che se n'è pentito, l'anno prossimo a settembre ci sarà Faenza Ludens 2017, molto probabilmente, e questa volta da non perdere. Bene, passiamo all'argomento della giornata adesso. Argomento della giornata che è i giochi di corse, giusto? Ah, ok. Giusto. Parliamo di giochi di corse, però, non ci siamo limitati ovviamente a parlare, cioè, non è corretto, non ci limiteremo a parlare di giochi di macchine, ma giochi di corse in senso più generico. perché anche Dino Race è un gioco di corsa, giusto per fare un esempio. Ne abbiamo già parlato, andate a rivedere gli episodi precedenti. Sì, lo trovate in uno degli episodi precedenti, non ricordo bene quale. Numero 3, Comics Popoli. No, non dovevi dirlo, così li cercavano tutti. Dai, vabbè. Bene, chi parte? Io o te? Ah, beh, io ne ho giocati veramente tanti a Faenza, quindi potrei anche iniziare Quindi io. parto io. Allora, come dicevo, ho scelto due giochi di corsa che sono un po' più vari, diciamo di un Formula D o di un Rallyman, che sono giochi di corsa proprio in senso vero e proprio, cioè hai la tua macchina. Invece, ne parlerò di un gioco che molti anni fa mi ha colpito e che trovo veramente valido e un giorno spero di possedere nella mia collezione, ed è Snow Tales, ovvero code nella neve, code innevate. Sì, perché Tales è scritto come code, non come storie. Snow Tales è un gioco di corsa con cani da slitta che ha già avuto ben tre edizioni, e l'ultima, che risale all'anno scorso, al 2015, è stata veramente, diciamo, perché la seconda edizione, la prima proprio era limite, era molto limitata. La seconda edizione era talmente rara, era diventata talmente rara, che i pochi negozi che l'avevano rimasto lo facevano costare un'esagerazione, come succede ad altri giochi tipo Ave Caesar. Vero? Sempre giochi di corsa. Quindi Snow Tales è questo gioco dove noi abbiamo una slitta governata da due cani, e tramite delle carte possiamo aumentare o diminuire il tiro di uno dei due cani, quello destro o quello sinistro. La combinazione, la sottrazione delle forze dei due cani ci dà allora, la somma della forza dei due cani ci dà il movimento, la differenza della forza ci dà lo spostamento, perché noi andremo sempre avanti, ma se il cane di destra tira 3 mentre il cane sinistra tira 2, andremo avanti di 5, ma uno di questi 5 passi sarà verso il cane che tira di più, quindi verso destra. Questa meccanica trovo veramente interessante, soprattutto perché nella pista il gioco diventa molto gestionale. Tu non puoi mettere i due cani a forza 6 e quindi andare a 12 dritto e sperare di vincere. Perché? Perché ogni volta che tu vai a sbattere contro i confini della mappa, contro un altro giocatore, oppure sorpassi certe zone pericolose a una velocità troppo alta, subisci un danno strutturale alla slitta. Questi danni li tieni in mano come i proiettili di Colt Express, e quindi ti vanno a bloccare un posto in mano. Più danni prende la tua slitta, meno scelta di carta avrai. Quando hai 4 danni, adesso vado a ricordo, facciamo finta, scusate, ma non so danni, che il massimo di carte in mano è 5, e 5 sono anche i danni prima di esplodere. A 4 danni tu hai solo una carta da poter usare ogni turno, e quindi diciamo che la fine è praticamente certa, perché non riuscirai mai a riequilibrare i cani in modo ottimale, considerando tutte le curve che bisogna fare, i rallentamenti, perché è un gioco in cui bisogna gestire sia il tiro a destra e a sinistra, sia rallentare e accelerare. Molto spesso, soprattutto rallentare è importante, perché sono molte zone in cui bisogna veramente entrare a velocità bassa, altrimenti prendi un danno, e bisogna avere le carte giuste in mano. Più danni hai, meno scelta hai, in più tu puoi usare più di una carta a turno per equilibrare la tua slitta. E inoltre ci sono gli alberi, anche quelli puoi subire un danno se ti scontri con un albero. In più, se tu ti scontri con un albero, questo viene tolto dalla mappa, quindi il giocatore dopo ci può passare senza problemi. Puoi aprire la pista agli altri. Per il resto, il gioco ha anche un'espansione che si chiama Della Rampa, ma quella non la conosco purtroppo. E i ricordi che ho di questo gioco sono molto positivi, veramente. Era veramente, veramente divertente, veramente semplice e adatto da area demo. È molto grande, montato Forse più grande anche di un Pixar, no, più grande di un Pixar quasi, grande come Pixar, diciamo, che fa il suo effetto. Veramente un gioco che secondo me è adatto a qualsiasi ludoteca, Snowtales. Tra l'altro ho anche un aneddoto riguardo a Snowtales. Praticamente, anni fa facevo al Play di Modena servizio di mostratore presso la Tana dei Goblin. E a un certo punto un altro goblin viene da me e mi dice: serve qualcuno che spieghi Snowtales, chi lo può, no, che spieghi Wintertale, chi lo può spiegare? E io, ah, io me lo ricordo Wintertale, e nella mia mente pensavo: il gioco dei cani da slitta, che bello, è da tanto che non lo vedo. Arrivo al tavolo e mi ritrovo Wintertail, il gioco narrativo della Raven, e tipo la mia reazione è stata: ah, non voglio spiegare Wintertail, non me lo ricordo nemmeno Wintertail. E quindi ho dovuto spiegare Wintertail a dei ragazzi praticamente inventandomi le regole. È stato molto imbarazzante. Beh, non è che si allontana molto dal gioco, forse la cosa. Comunque, tornando a Snowtales, l'edizione del 2015, facilmente reperibile, della Renegade costa sui 55 euro. È un prezzo abbastanza. È un bel prezzo, però ci sta, secondo me ci sta. Vedo che hai messo anche gli effetti sonori dei cani. Non sono io, temo che sia tu. Scusate il cane. Anche lui deve dire la sua su Snowtees, giustamente tirato in causa, quindi. Già, come cane, famoso cane da slitta. Vai, Claudio, dammi il cambio, presto. Va bene, così la smette. Allora, ultima cosa da dire su Snowtales: è un gioco molto interessante. Il problema è che ha un prezzo un po' particolare, cioè sembra che costa molto. Adesso io non l'ho mai provato, però per quello che sembra contenere costa veramente tanto. Slitta tra i 50 e i 70 euro, dipende dall'edizione, e slitta l'ho usato come termine per rimanere in tema al gioco. Beh, no, l'ultima edizione, che è quella più facile da trovare, costa 55. Se vai a cercare l'edizione vecchia del 2008, allora sì, costa 80 euro. Ma perché è rara, non perché costava così quando è uscito. Ok. Tra l'altro, ho scordato di dire, il gioco tiene fino a 5 giocatori. Anche questo è una cosa molto positiva. E in 5 gira bene. Anzi, forse è il me in 5 è la modalità migliore di gioco. Anche perché di solito nei giochi di corse i giocatori massimo sono 5 o 6, quindi mi Sì. sembra abbastanza normale. Ok, passiamo a un gioco che ho trovato per puro caso, ma che era nella mia wishlist da tanto tempo, quindi tra i giochi che desideravo. Tra l'altro l'ho trovato a Faenza, quindi ancora meglio, l'ho provato subito, ed è Rush and Crash. Questo è un signor gioco, signori, eh. Russian Crash. E ha una prima di partire a parlare delle regole del gioco, parliamo del contenuto della scatola, perché vi ricordate il discorso che avevamo fatto su Dia Monster, vedi episodi precedenti? Questo è ancora più buffo, perché la scatola è enorme. Tu la apri, ci sono le plance, tiri fuori, cioè le plance tutte appoggiate sulla plastica della scatola, ok? Che c'è tipo un cartoncino bianco. Sì. E i bordi, tutto lì le plance, e c'è un quadratino piccolino che fa da buco in questo cartoncino, che tiene tipo i dadi e 5 pezzettini di cartone, e basta. Ok? Ah, ok, anche questo è della scuola. Questo è ancora più scuola di Dia Monster, perché questo tiene ancora molto, cioè occupa ancora molto più spazio per piccolezze. Però è un gioco molto bello, eh. Ma giusto che la scatola è senza alcun motivo enorme. Beh, sai, sarà una questione pubblicitaria, magari. Scatola più grande giustifica un prezzo più grande, o chi lo sa. Non siamo editori. No, ancora no. E Rush and Crash, che cos'è? Se qualcuno è mai capitato a giocare, a essere un fan dei giochi della Nintendo, si può dire che è il gioco da tavola del celebre gioco F-Zero. Se qualcuno non conosce F-Zero, basta dire che è un gioco da tavola su corse futuristiche con macchine abbastanza fantascientifiche che vanno a turbo, hanno seghe circolari ai lati, hanno la mitragliatrice attaccata, il lanciafiamme, tirano le mine. Insomma, è una versione molto più fantascientifica e hardcore di Rush and Bash. Perché questo qui non è cartonesco, questo qui è fantascientifico cattivo. Qui se un giocatore esplode non torna al next checkpoint, qui se un giocatore esplode diventa un ostacolo nella mappa e non torna più in gioco. Qui ogni cosa che è sulla mappa può farti esplodere in qualunque momento. E ha una meccanica veramente interessante, che è la meccanica delle marce, la meccanica dei potenziamenti che puoi attivare alcuni in certi turni, la meccanica delle curve extra e la meccanica del surriscaldamento, che se vai troppo veloce puoi rischiare di esplodere perché stai surriscaldando la macchina. Quindi tu hai sia i punti struttura che i punti surriscaldamento. Ed è un gioco che si presenta più o meno con tipo 12 planche pista da attaccare una con l'altra, quindi tu puoi fare delle piste completamente diverse ogni partita. Se vuoi giocare in modo estremo, le usi tutte, fai una mega pista assurda, dove ogni plancia può avere ostacoli di tipo completamente diverso. E più ostacoli ci sono, peggio è, perché in questo gioco è difficilissimo curvare. Cioè, a seconda di quanto tu vai veloce, curvi di più. Se vai ai 4-5 passi a turno, che è il minimo, puoi curvare quanto ti pare. Ma appena sali, devi tirare dei dadi per vedere quante curve puoi fare normalmente in questo turno. Dopodiché devi usare la statistica volante per fare più curve, ma quella lì prima o poi finisce. E se dopo non riesci più a fare curve, vai a sbattere ogni turno. E ogni volta che sbatti contro un muro, a seconda di quanto vai veloce, ti puoi fare sempre più danni. E anche i punti ferita non li puoi recuperare. Quindi attenzione. L'unica cosa che puoi recuperare è il surriscaldamento usando l'estintore, ma che ti abbassa di uno la statistica ogni turno. L'altra cosa particolare è che il gioco arriva con sei personaggi, due personaggi per team, sono divisi in team, però la scheda del personaggio, che presenta anche la macchina, è fatta in modo che il personaggio sia incastrato dentro la macchina, cioè è una tabellina di cartone con attaccato dentro come se fosse da defustellare il personaggio. Tu lo puoi staccare e cambiargli macchina. Perché il personaggio ha delle abilità diverse, ha abilità diverse, e la macchina ha altre abilità diverse. Quindi Ah, tu ogni partita puoi cambiare il personaggio e la macchina, così hai abilità completamente diverse ogni partita. idea molto interessante, devo dire. Sì, è molto particolare, soprattutto perché i personaggi si differenziano proprio per le varie abilità, ognuno ce l'ha diverse. E le macchine anche alcune hanno più vita, alcune possono fare più curve e così via. Ho giocato tre partite, in tutte le partite sono esplosi più o meno tutti, quindi direi che non è facile. E il gioco arriva con due libretti, perché tu puoi giocare il gioco in modalità arcade o in modalità overdrive, mi pare si chiami l'altra. Quindi anche due modalità di gioco. Io adesso ho provato solo l'arcade, che è la più semplice. L'altra ha un libretto abbastanza grande da leggere. Penso che vado a sentito dire sia tipo la campagna l'altra. Non ne ho la minima idea, non ho ancora iniziato, non ho proprio neanche aperto quel libretto perché ho giocato solo la modalità facile adesso, che è quella classica da sala giochi, cioè il primo che si fa tipo 2 o 3 giri ha vinto, senza esplodere, che non Ovviamente. è mai detto perché magari qualcuno ti spara mentre ti fa anche esplodere, non si sa mai. Vabbè, molto molto bello, se vi piacciono corse, se vi piace la fantascienza è un ottimo acquisto quello, dovrebbe costare intorno ai 35-40 € se non ricordo male il gioco base. Stai aspettando che te lo confermi? No, no, non ne sono sicuro, è che io l'ho trovato un pochino a meno. E questo è Rush and Crash. Russian Crash. Da non confondere con Rush and Bash. No. Costa 35 euro più o meno, su e giù, su per giù. Dopo dipende da dove lo compri. Ok. Ok. Peraltro esiste anche l'extension pack. Yeah. Un'espansione da 22, sui 20 euro che penso aggiunga altri giocatori. Ma forse altre planche o altri modi per esplodere. Hai altro da dire o devo passare a un altro gioco mio? Non so nulla di Rush and Crash, quindi non potrei dire nulla. Ah, se intendi che ho un altro gioco, sì, io ho portato un altro gioco. Ho Beh. portato un gioco che ho provato proprio venerdì scorso, anch'io questo proprio fresco fresco, Ok. ed è un gioco anche abbastanza nuovo, anche questo del 2015, anche questo perché l'edizione Snowtaste nuova era del 2015, ed è Steampunk Rally. Un secondo, eccoci qua, Steampunk Rally della Rocksteady Games, che hanno questo gallo cetrone come simbolo. Team Bancarelli è un gioco di corse dove l'ambientazione è perché praticamente le più grandi menti del 1800 si sfidano a una corsa sulle Alpi con dei veicoli inventati e costruiti sul momento. Quindi è una corsa in cui il veicolo cambia continuamente, si modifica, perde pezzi, e ovviamente è ambientato sulle Alpi in quanto nelle Alpi svizzere, in quanto paese neutrale per eccellenza. E Giusto. anche questa cosa è divertente. Passiamo al gioco. Allora, innanzitutto il gioco ti viene presentato con una marea di inventori da cui scegliere. E ogni inventore parte con la sua carta e vabbè, e con una abitacolo e un pezzo dell'invenzione già stabiliti che ti danno un'abilità iniziale. Il gioco di Panica è una gestione dadi praticamente. Mi ricorda un altro gioco sempre basato sul vapore che era Heavy Steam, quello dove i robot giganti si picchiano in un 1800 ucronico. Ecco, la gestione del vapore è molto simile alla gestione dei dadi, più che del vapore qui. Praticamente, noi ogni turno possiamo aggiungere pezzi alla nostra invenzione. E i pezzi sono di tre tipologie. Ci sono pezzi che aumentano la locomozione, pezzi che più che altro servono da giuntura per creare nuovi pezzi, e parti che invece servono a creare dadi. Perché la nostra invenzione ha bisogno di dadi per attivare le sue parti, che possiamo ottenere in due modi, o attivando parti della macchina, e quindi parti che creano dadi per altre parti, oppure scartando parti della macchina che non vogliamo costruire. Ogni carta ha sia un valore di scarto, diciamo, con cui invece che giocarla scartandola possiamo ottenere dei dadi o degli ingranaggi, oppure è se stesso, ovvero un pezzo di macchinario con delle giunzioni e un effetto. Quindi, principalmente gli effetti funzionano in questo modo. Ci sono degli slot per i dadi che sono di tre tipologie, gialli, blu e rossi, e stanno a simboleggiare tre tipi di energia diversa, semplicemente. E un valore da raggiungere per ottenere lo scopo di quel pezzo della macchina. Ad esempio, davanti in questo momento ho l'induction motor che ha spazio per 4 dadi gialli e con un valore di 3 ti fa fare un passo. Quindi tu sommi tutti i dadi gialli che riesci a portare qui e dividi per 3 quello del tuo movimento. Quindi se hai un 6, 12, 18, 24, per dire hai 4, 6. 4, 7, 8, 9, fai 6 passi. L'unica cosa succede? Praticamente a un certo punto, come in Snowtail, dovremmo rallentare perché nella mappa sono presenti degli ostacoli. Ogni volta che la nostra macchina entra in una casella con un ostacolo, prendiamo un danno da segnare nella nostra ruota dell'inventore. Questo punteggio di punti vita, diciamo, scende o sale, a seconda se ci curiamo o prendiamo danni, e quando scende sotto lo zero si indica quanti pezzi di macchina perdiamo ogni turno. Quindi, quando hai subito 4 danni e sei a meno 4, ogni turno perdi 4 pezzi di macchina, dei quali devi lasciare per ultimo la carlinga con l'inventore. Se vieni a distruggere la carlinga, a quel punto la tua invenzione è esplosa e tu riparti nella casella dietro all'ultimo giocatore. Quindi se tu acceleri troppo, perdi il controllo perché prendi troppi danni, esplodi, ti ritrovi automaticamente ultimo. Per il resto, per gestire questi dadi, abbiamo gli ingranaggi. Gli ingranaggi servono per diminuire il valore dei dadi che abbiamo già piazzato nei turni precedenti nella macchina, e questi dadi, a meno che il pezzo della macchina o un effetto non dicano di scartarli, rimangono lì. Per Oppure possiamo utilizzarli per ritirare i dadi nella fase in cui vengono tirati i dadi prima di essere piazzati. Quindi abbiamo anche questi ingranaggi come token da spendere per gestire i dadi. Per il resto, vediamo se c'è qualcos'altro di importante da dire. No, mi sembra che ci siamo. Questo, allora, la mia impressione sul gioco: il gioco è molto carino, ma è difficile da spiegare alla prima partita, soprattutto a un novizio diventa molto difficile. Diventa difficile anche per un giocatore fargli capire le meccaniche, soprattutto le fasi del turno. Dopo una partita, ovviamente, il gioco è immediato. È un po' confusionario il fatto che alcune fasi si possono fare tutte in contemporanea, che non è un problema, altre vanno fatte a turno, quindi o decidi di fare il gioco tutto a turni, cioè tu fai questa fase, oppure se proprio vuoi farlo più sbrigativo, puoi fare un mix di una fase che si può fare tutti contemporanei, una no, ma diventa molto confusionario. Quindi la scelta è o farlo lento, in cui gli altri giocatori rimangono a guardare il giocatore attivo annoiandosi, o lo fai in versione confusionaria. Quindi anche come è stato gestito il turno di gioco, in realtà non è molto eccelsa. Per il resto, però, il gioco è veramente carino, molto buone idee, divertente e tutto. A livello di costi, vediamo su che fascia ci troviamo. Il gioco è una novità, è uscito da meno di un anno, quindi si trova molto facilmente, più online che nei negozi fisici, perché è di una casa editrice straniera. Ho fatto fatica io a trovare dei gameplay più che altro su internet, non se ne parla tantissimo di Steampunkerelli. È che per avere i gameplay devi pagare, si vede. La Roxy ha solo quel gioco lì e non paga. Purtroppo dietro le quinte fa veramente schifo il fatto di dover pagare per avere un gameplay. Anche perché inizialmente il gioco era un pre-order online, solo dopo è arrivato nei negozi. E tra l'altro vedo che ha avuto anche due nomination ai Golden Geek Best Award, ai Golden Geek Award l'anno scorso. Due nomination non ha vinto. Uno come gioco innovativo e uno come miglior artwork presentazione. Sono d'accordo su entrambi. È giusto, la grafica del gioco è veramente, veramente bella. Le invenzioni che vengono fuori sono veramente belle da vedere. Adesso purtroppo, ecco, l'ho trovato. Allora, Steampunkerelli è sui 45-50 euro. È una bella fascia di prezzo. Dentro la scatola c'è molta roba, devo dire, e dobbiamo considerare che è un gioco praticamente pubblicato solo per i fan, considerato che all'inizio era web published, adesso è molto più diffuso. Va bene, e questo è tutto. È un gioco che consiglio, ma se dovessi dire, se scegliere tra Steampunkerelli e Snowtail, io direi Snowtail. Non posso dire niente di Rush and Crash perché non lo conosco. E io direi Rush and Crash. Ecco. Però Steampunkerelli non l'ho giocato, l'ho Ecco. ascoltato adesso. Quindi non dateci retta, insomma. Datevi un'idea voi. No, siamo qui per manipolarvi noi, noi non ha capito niente. Ah no, a quanto pare no, non ho capito niente. No. Questa cosa mi era sfuggita. Comunque, questo è Steampunkerelli. Passiamo al quarto gioco e ultimo, probabilmente, gioco di corse di oggi. Parliamone velocemente perché qualcuno qui dice che il tempo stringe, diceva, quindi se il tempo sta per stringere facciamo in fretta. Sì, lo so. Allora, ne avrei più di uno, ma dato che andiamo di fretta andiamo con uno semplice. Ho giocato a Titan Race, l'avevo già visto in precedenza su internet, ma non era mai avuto occasione, non avevo mai avuto occasione di vederlo dal vivo, quindi l'ho potuto provare. È un giochino semplice da mezz'ora, un filerino di corse, dove ogni personaggio praticamente cavalca una creatura mitologica, diciamo. Quindi puoi cavalcare il Kraken, puoi cavalcare per qualche strana ragione Cthulhu o creature nordiche. Perché? Esatto. C'è anche Cthulhu, perché Cthulhu lo devono infilare da ogni parte. Però qui è scritto con schifo. la O almeno. Sì, no, ma lasciamo perdere Cthulhu, la meccanica del gioco è No, divertente. sì, non dico che schifo il gioco, dico che schifo questo mettere Ah, questa Cthulhu in affiliazione di ogni Cthulhu, sì. cosa. Cioè, Dei titani, sì. vabbè, dai. Comunque, inizio partita, ogni giocatore si sceglie il suo titano che ha un colore particolare, ha un colore del suo tipo. Quindi ogni giocatore ha un colore diverso. E ci sono, se non ricordo male, o 6 o 8 titani diversi, adesso non vorrei. Sono 6, giusto. Tra cui abbiamo anche il titano marrone, per scegliere un colore un po' più extra. E praticamente, a seconda del numero di giocatori, il gioco si può giocare in diverse modalità. Quindi si può giocare a squadre, si può giocare facendo una pista 3 volte, oppure si può giocare facendo 3 planche un'unica volta, perché l'obiettivo del gioco è passare oltre una plancia un determinato numero di volte. La prima volta che tu fai 3 giri hai vinto. Quindi se giochi con una plancia unica, devi passare 3 volte su quella stessa plancia, cioè devi andare in fondo a quella plancia, poi ricominci all'inizio della plancia e devi farlo altre 2 volte. Se giochi con 3 plancia, devi semplicemente finire tutte e tre, cioè arrivare nel bordo finale di ognuna delle tre. Quindi questi sono i giri della corsa. Molto bella la grafica, devo dire. Beh, è della FanForge, ok. E anche Quindi. le miniature che sono molto carine, sono piccole ma sono molto belle. La FanForge non sbaglia mai. E ogni plancia ha degli effetti diversi, quindi potete anche scegliere la pista. Io personalmente ho giocato con 3 piste attaccate, facendo tipo la pista dei cristalli, poi quella dei pirati, poi la miniera, succedono un sacco di cose strane. Perché ogni pista ha delle caselle che attivano degli effetti speciali particolari per quella pista. Come funziona il gioco è semplicissimo. A seconda del numero di giocatori prendi un dado in più in gioco, quindi se siamo in 3 prendo 3 dadi. Il primo giocatore ne tira 3 e ne sceglie uno da assegnare al suo titano. Il dado sarà il movimento che tu fai quel turno, a seconda della faccia che uscite. Dopodiché il secondo giocatore prende uno dei 2 dadi rimasti e il terzo o si tiene quello che è rimasto oppure lo può rilanciare e tenersi quello che è uscito. A seconda della faccia che è uscita, tu puoi muoverti in certi tipi di modi o lasciare delle trappole sulla mappa e in più se l'azione è del colore del tuo titano recuperi anche un punto ferito. Se no non hai altri modi per curarti. Dopodiché nella plancia ci sono certe caselle che ti fanno pescare carte speciali, che ne puoi giocare una per turno, o certe caselle che attivano effetti speciali che possono essere negativi o positivi. Inoltre ogni titano inizia la partita con una carta abilità speciale che può usare una volta per turno, tranne il primo turno. Le abilità speciali possono essere spingere un titano adiacente, annullare una trappola, succhiare la vita a un altro giocatore, cose del genere. Ed è molto in particolare perché è tutto un gioco di rimbalzi e se un titano finisce i suoi punti ferita non è che muore, si deve ricaricare e quindi stare fermo un turno nella posizione in cui si trova. Ah, È interessante. molto veloce, tranquillo, simpatico, la meccanica dei dadi è molto particolare perché c'è questa cosa qui del primo del turno che sceglie e lascia i resti agli altri e l'ultimo può ritirare il dado che è rimasto. E costo tra i 20 e i 25 euro, se non ricordo male, forse tra Sì, i 20 e i 30. no, vedo che è sui 25 in generale. Esatto, molto bellino, lo consiglio a chi piacciono i filler e i giochi di corse, mi è piaciuto molto. Infatti l'ho giocato già 2 o 3 volte. Anche questo è del 2015. Stasera parliamo solo del 2015, tranne Rush and Crash che ormai è del Ma 2020. quello 2009? Sì. Così vecchio, ma guarda. Vabbè. Ah. Sono, da mio parere, Titan Race è un buon gioco, e anche Steampunk Rally sembra abbastanza bello. Sì, ma in realtà i giochi che abbiamo parlato stasera sono tutti, valgono tutti. Li abbiamo scelti perché ovviamente sono belli. Perché, e soprattutto perché sono atipici. Se uno pensa a giochi di corse, non pensa a questi. Sì, anche perché comunque i giochi di corse, cioè di quelli che vendono molto, non, cioè cosa ti viene in mente? Pixcar? Iscar, Formula D, Rallyman Sì, e basta. Cioè, forse Rush and Bash, tu. e Rush and Bash, sì, esatto. Però effettivamente gli altri giochi di corsa sono un po' più di nicchia. Effettivamente, però sono molto belli. Cioè, adesso io non sono un amante dei videogiochi, comunque giochi a tavola di corsa, ma mi sono piaciuti molto questi. E questo è l'importante. Ok, bene, bene, bene. Direi, sei pronto a chiudere qui? Aspetta Sì. che farei qualche altra, diciamo, titolo di rispetto che ci siamo scordati. Abbiamo detto Formula D, abbiamo detto Rallyman, poi c'è Ave Caesar. Altri giochi di corse che meritano di essere citati, beh, cioè, abbiamo detto Rush and Bash, quello fantasy che tu con le quadrighe, come si chiama? Arena Maximus. Arena Maximus. E Vediamo un po', giochi di poi corse. c'è Formula, Ah, GT, ho capito quello che dici è un tu. gioco di inizio veramente carino. Formula One dovrebbe essere. No, No. Formula Motor Racing. Formula Motor Racing di inizia. Ok, in questo momento non vengono mai piazzati giochi di corso, Ah, quindi. c'è Dino Ah, Race dai, no, e Robo Rally e Ship Race. Ship Race. Vabbè, Ship Race è più un gioco di scommesse quasi. Sì. E Robo Rally anche, che è un Adesso classico. non so se Horse Fever perché non ho mai provato è di Aste o di corse. Pensavo che è di Aste Non fosse. saprei nemmeno io. Beh, anche la plancia di Dixit Odyssey è un gioco di corsa, volendo. Vabbè, sì. Ok. Dopo questa scimenza, siamo avvicinati veramente alla chiusura. Allora, comunicazioni di servizio. L'abbiamo detto anche alla fine dello scorso episodio, ma magari qualcuno di voi se l'è perso. D'ora in poi, per un po' di tempo, i nostri podcast non sono su YouTube, perché abbiamo riscontrato i limiti dell'account free di SoundCloud, quindi non ci troverete più su SoundCloud. Se il podcast avrà un buon seguito e ne varrà la pena, tra qualche mese potremo prendere un account premium su Spreaker o qualcos'altro e quindi avere più visibilità. Ma per adesso ci accontentiamo di YouTube. Ok, invece parlando di Area Games, come sempre ci trovate tutti venerdì sera al Bar President di Forlì, dove potrete provare dei giochi citati stasera, tutto tranne Snow Tales, purtroppo. Invece ci troverete a Amici Toscani l'1 e 2 ottobre a Empoli, al Palazzo delle Esposizioni per Empoli Games. Per ora gli appuntamenti sono questi, e direi che siamo pronti a salutarci e ci vediamo al prossimo episodio. Va bene. Ricordo sempre che se volete che parliamo di qualcosa di specifico, volete suggerirci un argomento, consiglio, quello che volete, commentate su YouTube o sulla pagina Facebook dell'associazione. Mi prego, fatelo. Su YouTube, giustamente, ho scordato l'account, vabbè, se state ascoltando questo video probabilmente lo vedete, è WarioPunk. Mi scuso anche se negli ultimi episodi la mia registrazione è di bassa qualità, ma ci stiamo lavorando, stiamo avendo problemi tecnici. Di tipo canini più che altro. No, quelli li hai avuti te stasera, di solito sono io e basta. Stasera problemi a non finire proprio. Speriamo che almeno in fase di post-produzione vada tutto bene stavolta. Ok, direi che siamo pronti a salutarci, ci sentiamo il prossimo venerdì per la puntata pre-Empoli, dove porteremo un argomento fantastico, vero? Sì, Ok. sarà fantastico. Ve lo Ah. auguriamo. Ok, ciao a tutti! Ciao ciao.